Buenos días a todos. Yo estoy pasando al italiano. Espero que después de mí alguno no me apague en latino. Fue después en griego. Estamos pasando al italiano. Espero que después de mí no haya alguno que esté hablando latino o griego. En ogni modo, ringrazio la traduttrice per essersi messa a disposizione. Agradezco a la traductora de ponerse a disposición. Il tema di questa conferenza. Il tema di questa charla è il futuro del treno. È il futuro del treno. Come io non ho una sfera di cristallo. Come non tengo una bola di cristallo. Non posso salutarvi a dare una risposta. Non vi posso aiutare a encontrar una risposta. Anche perché penso che la risposta è nel presente. Además porque pienso que la respuesta está en el presente. Lo Zen del futuro è qui e adesso. El Zen del futuro está aquí y ahora. Però ci sono delle condizioni. Pero hay condiciones. E entrerò nel niente di queste condizioni. Y voy a entrar en el corazón de estas condiciones. Anche perché quando io ho iniziato a seguire il Buddha Dharma, también porque cuando yo empecé la práctica del Buddha Dharma, non c'erano molte alternative. No había muchas alternativas. O era il Zen. O era el Zen. O era il buddismo tibetano. O el budismo tibetano. Nelle sue varie scuole. En sus diferentes escuelas. Oppure era Osho, Rajneesh. O se no, era con Osho. Quindi era subito fatto. Era muy rápidamente hecho. Scegliere. Escoger, questa gente. Ma oggi la situazione è un po' più complessa. Pero hoy día la situación es un poco más compleja. Ci sono molte scuole, molte tradizioni. Hay muchas escuelas y muchas tradiciones que cambian con el tiempo. Que cambian con el tiempo. Allora la domanda che bisogna porsi è: quali sono le condizioni, le caratteristiche minime affinché si possa parlare di Buddha Dharma? Entonces me hago la pregunta: ¿cuáles son las condiciones más mínimas para que se pueda hablar del Buddha Dharma? Come certamente voi sapete, l'abbiamo già sentito, quindi mi ripeto. Come già l'avete ascoltato, entonces le ripeto. I concetti fondamentali del Buddha Dharma. Los conceptos fundamentales del Buddha Dharma. Su quali tutte le tradizioni concordano. Sobre el cual todas las tradiciones concordan. Sono i quattro sigilli della legge. Son los cuatro sellos de la ley. I Dharma Mudra. El Dharma Mudra. Tutti i dharma sono impermanenti. Todos los dharmas son permanentes. I dharma sono i fenomeni. Dharma, una T minuscola. Y los dharmas son los fenómenos con T minúscula. Tutti i dharma sono privi di un sé. Todos los dharmas están privados de sí. Tutti i dharma sono caratterizzati dalla sofferenza. Todos los dharmas están caracterizados por el sufrimiento. E l'ultimo sigillo, nel quale a volte si fa fatica a parlare. Y el último sello del cual a veces es muy difícil hablar es que el nirvana es quieto. Es que el nirvana es quietud. Per nirvana se entiende lo stato in cui il fuoco delle contaminazioni è estinto. Per nirvana se entiende. El nirvana se entiende por il fuoco delle contaminazioni. El fuego de las contaminaciones è estinto. Che si apaga. Segnalo che il termine buddismo, segnalo che il termine buddismo è stato coniato in Occidente nel XX secolo. Ha sido creato nel secolo XX. La cultura occidentale tende a racchiudere i fenomeni. La cultura occidentale tiende a encerrar los fenómenos dentro delle rigide categorie concettuali. Dentro de rígidas categorías conceptuales. Questa sorte è toccata anche al Buddha Dharma. Y esto le sucedió también al Buddha Dharma. La buona legge di Buddha. La buona legge di Buddha. che dà via, la B maiuscola, che dà via, con la B maiuscola, detto, che si interessa esclusivamente alla dimensione fenomenica dell'esistenza, che si interessa esclusivamente alla dimensione fenomenica dell'esistenza, è stato trasformato, ha sido trasformato in una ricetta, in una ricetta per risolvere questioni di tipo ontologico, per risolvere preguntas di tipo ontologico, cioè relative all'esistenza, che sono relative all'esistenza. Ma i quattro sigilli che abbiamo citato dalla legge, per i quattro segni che abbiamo operato sulla legge, smentiscono questa posizione. Desmiente questa posizione. Il Buddha Dharma è adogmatico. Il Buddha Dharma è adogmatico. Il Buddha Dharma, il Buddha Dharma si è sempre contestualizzato e sempre si è contestualizzato, inculturato, è entrato nella cultura con le realtà sociali o con le quali è entrato in contatto, dentro delle realtà sociali con le quali è entrato in contatto. I missionari buddisti, los missionarios budistas, operano penetrando profondamente nelle culture d'arrivo, entrando nella cultura del luogo, trasformandola da dentro e trasformandola desde adentro. Questo fa sì, e questo fa sì, che non ci sia un buddismo, che non esista un buddismo, ma che ci troviamo in presenza di buddismo, però che nos encontramos más bien en presencia de budismos, ciascuno dei quali è legittimo e autentico, y cada uno de ellos es legítimo y auténtico nella sua terra, en su tierra, nel suo tempo, en su tiempo, nelle sue condizioni culturali, en sus condiciones culturales, ambientali, ambientales y históricas. Per esempio, il buddismo, il Buddha Dharma nasce in India. Por ejemplo, el Buddha Dharma nace en India. È molto filosofico. Y es muy filosófico. Gli indiani, i maestri indiani, i brahmani, sono capaci di spaccare un capello non in 4 ma in 12. Los brahmanes hindúes son capaces de cortar cabello no en 4 sino en 12. Quindi è molto riflessivo il buddismo in India. Reflexiona mucho en India. Quando va in Cina si incontra con la tradizione taoista o taoista. Quando llega a China se si encuentra con el taoísmo y el confucianismo. Y aquí el budismo recibe. Y aquí el budismo recibe la ritualidad, los ritos y la organización. Y la organización. Cuando poi el budismo pasa en Japón. Cuando llega a Japón. Prima in Corea. Primero pasando por Corea y por el este, encuentra el sentimiento. Encuentra el sentimiento. La pasión. La pasión. Il bello. Lo bello. Ora dobbiamo chiederci quali sono le caratteristiche minime, fondamentali e irrinunciabili. Entonces tenemos que preguntarnos cuáles son las características mínimas, fundamentales y irrinunciabili, y a las cuales no podemos renunciar, que ci permettono di stabilire, que nos permiten establecer, que la tal forma di buddismo, que esta forma de budismo è conforme al buddismo delle origini, es conforme al budismo de origen. Innanzitutto bisogna dire con chiarezza e fermezza, primero de todo tenemos que decirlo con claridad y firmeza, Buddha Dharma è una religione. Il Buddha Dharma è una religione. In quanto dotato di miti. E quanto sta dotata di ritos. Riti. Mitos, perdon. Riti. Ritos, mitos e simboli. Questi tre elementi sono molto importanti. Estos tres elementos son muy importantes. Que permiten al hombre de actualizar. Que le permitan al hombre de actualizar. La experiencia del sacro. La experiencia del sagrado. El sacro es ciò che non è profano. Lo sagrado es lo que no es profano. La segunda característica es la ética. La segunda característica es la ética. Que a través de precepti invita al uomo a comportarse en modo. Que a través de los preceptos invita al hombre a comportarse de manera. Da promover benevolencia per tutti gli esseri. De promover la benevolencia por todos los seres. Il Buddha Dharma, questo è il terzo punto. El tercer punto, el Buddha Dharma. Non è un insieme di credenze, di opinioni, di speculazioni. No es un conjunto de creencias, de especulaciones. O di costruzioni intellettuali. O costruzioni intellettuali. Che provengono da immagini personali. Que provienen de imágenes personales. O que son propuestas del guru. O que son propuestas por el guru. Quindi la terza caratteristica consiste nel fatto che il Buddha Dharma. Entonces la tercera característica consiste en que el Buddha Dharma indica solo il cammino che conduce alla liberazione. Solamente el camino que conduce a la liberación. Questo cammino è senza inizio e senza fine. Este camino no tiene principio ni fin. E si segue praticando con il corpo mente. Y se sigue practicando con el cuerpo mente. Sedendo in dhyana. Sentándonos en dhyana. Chan in cinese. Chan in chino. Zen in giapponese. Y zen in japonés. Sedere in zazen. Sentarnos en zazen. Possiamo anche dire samatha vipassana. Que podemos decir samatha vipassana. Samatha è uguale a samadhi. Samatha es igual a samadhi. Samadhi significa unire, congiungere. Que significa unir y reunir. È simile a simbolo. Que es parecido a símbolo. Quindi samadhi, simbolo. Entonces, samadhi, símbolo. Samatha. Samatha. Ricordano la stessa. Non pueden recordar la misma palabra. Vipassana è un profondo livello di comprensione. Vipassana es un profundo livello di comprensione della realtà per quello che è. De la realidad tal cual es. Abbiamo già parlato. Sì. De la cual ya se ha hablado. Dentro. Allora, in giapponese shamatha vipassana è shikan. Entonces, en japonés, sabata vipassana es shikan. Shikan, que es el prefijo de shikantaza. Es el prefijo de shikantaza. Ora, questo sedere in zazen. Esto es sentarnos en zazen. Significa vivere esencialmente. Significa vivir esencialmente. In modo esperienziale, pratico. De manera, a través de la experiencia, práctico. La verità esposta da Buddha Shakyamuni. Es la verdad expuesta por el Buddha Shakyamuni. Che altro non è che vedere Pratitya Samutpada. Che non è altra cosa che vedere Santita Pratitya Samutpada. Pratitya. Cioè la dottrina della coproduzione condizionata. Es decir, la dottrina della produzione condizionata. La dottrina della produzione condizionata. Si dice che chi vede l'origine. Si dice che aquel che vede l'origine. Della coproduzione condizionata. Della coproduzione condizionata. Vede il Dharma, la legge di Buddha. Può vedere il Dharma, la legge di Buddha. Chi vede la legge, chi vede il Dharma. E chi vede il Dharma. Vede la coproduzione condizionata. Può vedere la coproduzione condizionata. Condizionata. Questo lo trovate nel Majjhima Nikaya. Questo lo potrei nel grande discorso sulla similitudine dell'orma dell'elefante. Majjhima Nikaya. Majjhima Nikaya. Grande discorso sulla similitudine. Che è la grande, il gran discorso della similitudine dell'orma dell'elefante. Della uella dell'elefante. Ora, affinché si può possa parlare di Buddha Dharma, queste cinque caratteristiche devono essere presenti. Entonces, para que se pueda hablar de Buddha Dharma, tienen que estar estas cinco características presentes. In una forma, in un involucro. Con una forma, con algo que las envuelve. In un'organizzazione. En una organización. Capaci di garantire. Che pueda garantizar. Non solo la realizzazione. Non solo la realizzazione. Questi punti. Estos puntos, ma anche l'autentica trasmissione, pero también la auténtica transmisión, di generazione in generazione, che passa di generazione in generazione. Allora, queste forme, questi tipi di organizzazione, entonces estas formas, estos tipos de organización, si sono trasformate nei secoli, che si hanno trasformato attraverso i secoli, e sono diventate delle vere e proprie tradizioni, e che si convirtieron in verdaderas e proprie tradizioni, con delle proprie estetiche, liturgie, con su propria estetica, su propria liturgia, interpretazioni, su propria interpretazione, ma anche contaminazioni con la realtà sociopolitica del paese, però si sono. Pero también contaminándose con la cultura y el sitio donde se encontraban. Questo aspetto è molto importante. Y este aspecto que es muy importante. La relación con la realidad sociopolítica local del país. Esta relación con la realidad sociopolítica del lugar donde se encuentra. Si potrebbe aprire un dibattito su questo tema. Y se podría aprire un altro. Se podría dar una discusión sobre este tema, pero quizás es el tema de otro simposio. Ma anche Shakyamuni Buddha si preoccupò di queste questioni. Incluso Shakyamuni Buddha se preocupó de estas cuestiones. Infatti è famosa la relazione di Shakyamuni Buddha con Bimbisara. Fue es muy famosa la relación de Shakyamuni Buddha con Bimbisara. Bimbisara, el rey del Magadha. O rei del Magadha, dove Buddha praticò. Dove Buddha praticò. Anche Dogen Zenji beneficiò del sostegno di personalità politiche. Incluso Dogen Zenji beneficiò dell'aiuto di politici. Soprattutto in particolare da parte di Hatano Yoshishin. Soprattutto dell'aiuto di Hatano Yoshishin. Era un potente samurai. Che era un poderoso samurai. Chi vuole approfondire questi temi c'è un ottimo libro di William Bodiford. Se alguien quiere interessarsi a profondizzare questo tema, hay un libro di William Zen Soto in Medieval Japan. Si preoccupò anche Buddha Shakyamuni delle questioni, diciamo così, politiche del periodo in cui lui viveva. Entonces, incluso Shakyamuni Buddha se preoccupò delle questioni politiche del periodo del quale vivia. Vi leggo un passaggio. Devo leggere un passaggio. Del Dīgha Nikāya. Del Dīgha Nikāya. Del capitolo Maha Nidana Sutra. Il capitolo del Maha Nidana Sutra, nel quale Buddha Shakyamuni descrive l'origine e nel quale Buddha Shakyamuni descrive l'origine torbida non salutare della proprietà, torbida e non salutare della proprietà. Così o Ananda, así o Ananda, la sensazione è origine della sete, è l'origine della sete. La sete è origine della ricerca. La sete dà origine alla búsqueda. La ricerca è origine dell'arroganza. La sete è origine dell'arroganza. L'arroganza è origine del gradimento. L'arroganza dà origine al gratificarsi. Il gradimento è origine del desiderio. Il gratificarsi dà origine al deseo. Il desiderio è origine del possesso. El deseo da origen al deseo de poseer. El possesso es origen de la propiedad. El deseo de poseer da origen a la propiedad. La propiedad es origen de la avaricia. La proprietà dà origine all'avarizia. L'avarizia è origine della tesaurizzazione. L'avarizia dà origine alla teorizzazione. E da scopo di tesaurizzare. E con l'obiettivo di capitalizzare. De capitalizzare. Viene l'armarsi di mazza. Viene il armarsi di una di un bastone. L'armarsi di spada. De tomar como arma una espada. C'è la guerra. Nasce la guerra. La conquista. La conquista. Il litigio. La pelea. La discussione. La discussione. La calunnia. La calunnia. La menzogna. La mentira. E molti altri elementi torbidi. E molti altri elementi torbidi. Che non sono salutari. Che non sono salutari. Si manifesta. E che si manifesta. Una questione alla quale Buddha pose particolare attenzione era l'organizzazione del Sangha. Una delle cose alla quale Buddha puso molta importanza fu l'organizzazione della Sangha. Per questo formulò precetti. E per questo, entonces, formulò preceptos. 227 per i monaci. 227 per i monaci. E 311 per le monache. E 311 per le monache che non saranno molto attenti. Questo è il Vinaya. Questo è il Vinaya. Non sono precetti finalizzati a moralizzare. Non sono precetti che tienen come finalità la morale. Sono più simili alla jihad islamica. Tiene che vedere, quizás, con más relazione con il jihad islamico. Cioè sono precetti che mirano a costruire dei guerrieri del Dharma. Sono precetti che mirano más bien a costruire guerrieri del Dharma. C'è un altro aspetto importante che Buddha Shakyamuni ha sottolineato e ha lasciato queste indicazioni nel Maha Parinirvana Sutra. Hay otro aspecto que Buda revivó y que lo ha dejado en el Maha Grande, Maha Parinirvana. En el Maha Parinirvana Sutra. Que es un sutra muy importante. Uno sutra para estudiar todos los días. Un sutra muy importante que se debe estudiar todos los días. Qui cito solo sette norme che ha dato Buddha Shakyamuni alla comunità, alla Sangha, per prosperare e non andare in rovina. Aquí les voy a citar solamente siete de ellos para que el Buddha proclamó para proteger y no dejar de generar. Allora, di fatto suggerisce al Sangha di riunirsi periodicamente. Y de hecho aconseja la Sangha de reunirse periódicamente. Ci sono degli elementi quindi di democrazia parlamentare, potremmo dire. Entonces se podría decir que hay principios de democracia parlamentaria. E inoltre suggerisce di non cambiare le norme del Vinaya. En otras palabras quería decir que no se cambiaran las normas del Vinaya. Di non come dire, riformarle. Di non riformarle. Di non aggiungerle di nuove. Non aggregare nuove. È come dire, la Costituzione non si cambia. È come dire che la Costituzione non si cambia. Oggi siamo in questo simposio che è dedicato allo Zen. Oggi stiamo qui sentati in questo simposio dedicato al Zen. Ma dai simboli che vedo qui, no? Dai simboli che noi indossiamo. Però attraverso i simboli che vedo qui, che noi abbiamo. Penso che si riferisca a questo Zen, allo Zen Soto. Io penso che si riferisca a questo aspetto al Zen Soto. Ma di fatto lo Zen è qualcosa di molto più ampio. Però il Zen è qualcosa molto più ampio. Tuttavia, lo Zen Soto, sin embargo, il Zen Soto fa riferimento a una storia lunga di 785 anni. Se refiere a una storia che tiene più di 785 anni. Sì. Ed è inscindibile questa storia. con la vita e la realizzazione di Dogen Zenji prima. E che tiene che ver intimamente con la, la realizzazione di Dogen Zenji. E dei suoi successori, Keizan Zenji, eccetera. E dei suoi successori, come Keizan Zenji. Quindi, oltre alle cinque caratteristiche citate, e cioè, más allá de las cinco características que se citaron anteriormente, gli adepti dello Zen Soto devono tenere in considerazione, los adeptos del Zen Soto tienen que tener en consideración la visione non dualistica di Dogen Zenji, la visión que no era dual de Dogen Zenji, che si attualizza nei seguenti sette principi. Que se actualiza en los siete principios que siguen. Shusho y Chinyo, práctica y despertar no son separados. Práctica y despertar no están separadas. Shobutsu y Chinyo, los seres de Buda no son separados. Los seres y Buda no están separados. Shode no Upo, la vera transmisión de la ley del Buda. La verdadera transmisión de la ley de Buda. Jijiu Zammai. Io ho tradotto con godersi la gioia del risveglio, godere della gioia del risveglio. Gozar, disfrutar della alegría del despertar. Kyogyo Sho Itto, insegnamento, pratica, risveglio, non sono separati. Insegnanza, pratica e despertar, non stanno separati. Butsu Kojo no Homon, la porta del Dharma è oltre il Buddha. La puerta del Dharma es más allá del Buda. Yate, yate, hara, yate, hara, sobiate, boji, soa, ka. El mantra final de la Agni Shingyo. Es el mantra final de la Agni Shingyo. Más allá del más allá. Questi sette principi. Estos siete principios. A questi aggiungerei anche. Al cual yo agregaría. L'irrinunciabilità di vestire il Kesa. No renunciar a vestir el Kesa. Magnífico hábito de libertad. Que es un magnífico hábito de libertad. Que ilustra el enseñamiento de Shakyamuni Buddha. Y que ilustra la enseñanza de Shakyamuni Buddha. En extrema síntesis. Y en de manera no sintética. Podríamos decir que la vía. Podríamos decir que la vía. Consiste en rasarse el cráneo. Consiste en Rasarsi la cabeza, sedere in zazen, sentarsi in zazen e vestire in chiesa. E vestire in chiesa. L'altro punto è l'intento, la motivazione. L'altro punto è la motivazione. Questo intento, la motivazione, sono i quattro voti del Bodhisattva. Y estos son los cuatro votos del Bodhisattva. Infiniti sono gli esseri, di liberarli facciamo voto. Infinitos son los seres, hago el voto de liberarlos a todos. Le illusioni sono infinite, facciamo voto di estirparle. Las ilusiones son innumerables, hago el voto de liberarlas todas. La via del Buddha è impareggiabile. La vida de Buda es insuperable. Facciamo voto di seguirla. Y hago el voto de seguirla. Le porte del Dharma sono infinite. Las puertas del Dharma son infinitas. Facciamo voto di marcarle. Y hago el voto de llegarte de sobrepasarlo. Hotsu Bodai Shin, 79° capitolo dello Shobogenzo, dice: risvegliare la mente che cerca il Buddha. Despertar la mente che busca Buddha. Significa aiutare tutti gli esseri. Significa aiutare. Aiutare a tutti gli esseri. E aiutare tutti gli esseri a conseguire il risveglio prima di interessarsi del proprio. Aiutare gli esseri a alcanzare il despertar antes del suo proprio despertar. Quando si procede con l'intento di inculturare un paese o una religione. Quando si tratta di acculturare un paese con una religione. C'è un tema molto importante da prendere in considerazione. Che è un tema molto importante da tenere in cuenta. è il tema del carisma e istituzione. Es el tema del carisma y de la institución. Perché ogni religione si deve confrontare. Porque cada religión se tiene que confrontar. Con l'irripetibilità dell'evento fondante. Con el hecho de que el evento que funda no se repite. Nel nostro caso l'evento fondante è il risveglio di Chakramuni Buddha. Y para nosotros es el despertar de Chakramuni Buddha. E come tramandare questo evento? Es como trasmettere alle generazioni. Trasmitirla a las generaciones futuras. Allora, il carisma è qualcosa di effervescente, dinamico. Y el carisma es algo que es efervescente y dinámico. Chakramuni Buddha è carismatico. Y Chakramuni Buddha es un carismático. L'istituzione è rigida, burocratica, politica, statica. La institución es rígida, estática, burocrática. Fra queste due entità c'è attrito, c'è scontro. Y entre estas dos entidades pues, hay encuentro, hay choque. Okay. E questo pone molti problemi. Puede crear muchos problemas. Perché quando c'è troppo carisma. Pues cuando hay demasiado carisma. C'è un cedimento delle istituzioni. Pues cede la institución. Quando c'è troppa istituzione, y cuando hay demasiada institución, c'è un cedimento nel carisma. Entonces se pierde el carisma. E quindi ci sono i rischi, no, che il tentativo di inculturare un paese con una religione venga a cadere, fallisca. Entonces hay el riesgo que el intento de hacer entrar una religión en un país pues fallezca. C'è anche un altro problema molto importante da tenere in considerazione. Otro punto muy importante que hay que tener en consideración. È lo spirito del fare. Es el espíritu de hacer. Dello stile del fare. De la manera de hacer. E questo stile del fare non si trova nei manuali. Y esta manera de hacer no se encuentra en los manuales. È una condizione che si tramanda da maestro a discepolo, di Shin del Shin. È una condizione che va a passare di maestro a discepolo, di Shin del Shin. Da cuore a cuore. Di mio corazzo a tuo corazzo. E questo quindi è una responsabilità dell'insegnante. E questa è una responsabilità dell'insegnante. Di tramandare lo stile. Di passare il stile. Come si passa un incenso? Come si può passare l'incenso? Come si veste il chiesa? Come si veste il chiesa? Come si porta il chiosaco? Come si lleva il chiosaco? Lo so che questo è uno strumento che è stato cancellato da molte scuole e io me ne duolo molto male. Aunque sé que este strumento ha sido eliminado de muchas escuelas y a mí esto me duele. Tutto ciò che ho detto mira e tutto questo che hai detto mira a attualizzare il risveglio mira attualizzare il despertar diciamo nel mondo. E questo risveglio come è stato detto è mucho dopo. E questo despertar come ho detto è mucho dopo. Per dirla con Kodo Sawaki Roshi, il mio bisnonno spirituale. Para decirlo como le dijo mi bisabuelo Kodo Sawaki, Zazen es inútil. Zazen es inútil. No sirve a niente. No sirve para nada. Anche il desiderio di liberarsi dalla noia. Aunque el deseo de liberarnos del aburrimiento. O dalla sofferenza. O del sofrimiento. Di realizzare la pace dello spirito. Per realizzare la pace dello spirito. O di ottenere la saggezza. O di ottenere la sabiduria. È solo fabbricazione umana. Son solo fabricaciones humanas. La via è non attaccamento. La via è no apego. Senza aspettative. Sin esperar nada. Perdita assoluta. Perderlo todo. Questo è lo Zen al di là dello Zen. Esto es el Zen más allá del Zen. come l'ha definito Hoho Chisan Zenji, come lo definì Hoho Chisan Zenji, abate di Sojiji, che era l'abate di Sojiji dal 1957 al 1967, del 57 al 67. Uno Zen che si sviluppa a partire da una giusta educazione, un Zen che si sviluppa attraverso una giusta educazione e formazione, di formazione che richiede una salda conoscenza filosofica, che nos solicita un largo conoscimento filosofico, la comprensione dello sviluppo storico dello Zen, la comprensione del desarrollo storico del Zen e la guida di un autentico insegnante, y estar guiados por un auténtico enseñante, teniendo bien presente tutte le caratteristiche citate fino a questo momento, y si tenemos todas estas características presentes hasta ahora, è tuttavia possibile pensare a uno Zen autóctono, podemos entonces pensar quizás a un Zen autóctono, uno Zen basato sulla tradizione filosofico-religiosa del paese in cui lo Zen viene introdotto, un Zen che un Zen che si basa sulla tradizione, tradizione filosofica e religiosa del paese che lo accoglie. Questo è successo in Cina. Questo succede in Cina. Anche in Giappone, in parte. E anche in Giappone, come parte. Per esempio, i nostri sutra, Sandokai, Okesanmai. I nostri sutra, per esempio, Sandokai, Okesanmai. Shinjin-mei. Sono di origine taoista. Nascem e são de origem taoísta. I 10 tori di Kakua, i primi 8 sono taoisti, gli ultimi 2 sono invece buddhisti. Ecco, quindi concludendo, rubo un minuto. Concludendo, vorrei di nuovo offrirvi un aforisma di Kodo Sawaki. Y para terminar quisiera regalarles un aforisma del maestro Kodo Sawaki. Senza aspettarsi qualcosa in cambio. Sin esperar nada a cambio. Offrirsi a viso aperto. Ofrecerse a rostro abierto. Dando un senso di fiducia e di sollievo. Dando un sentido de confianza y de sosiego. Senza oggetto. Così è la mente non impedita dal proprio egoismo. Así es la mente que no está impedida del propio egoismo. La libertà non è egoismo. La libertad no es el egoísmo. Dare troppa importanza a se stessi. Darle mucha importancia a sí mismo. È solo una fonte di preoccupazione. È solo fonte di preoccupazione. Di difficoltà e di timore. De dificultad y de temor. Mucho troppo. Mucho dopo. È l'abbandono di sé. È l'abbandono di se stesso. Dei propri pensieri. De sus propios pensamientos. Delle costruzioni mentali. De las costruzioni mentali. La vera compassione consiste in questo abbandono. La verdadera compasión consiste en este abbandonarsi. Da cui trae origine. Del quale toma origine. E a cui ritorna. E al quale regresa. Detto questo, che viva il Dharma. E dicho esto, che viva il Dharma.